Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 12 ottobre, buongiorno e bentornati a Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e oggi torneremo a occuparci di Medio Oriente. Nella prima puntata di questa trasmissione, due settimane fa, abbiamo visto come il petrolio a uso militare transita dal Mediterraneo e dai porti italiani. Oggi torneremo a parlare di Palestina e lo faremo da una prospettiva ancora diversa, cioè quella delle manifestazioni a favore del popolo palestinese. Gli ultimi giorni hanno visto lo sforzo bellico israeliano ampliarsi e coinvolgere altri paesi, altre regioni e anche altri obiettivi. Il Libano, in particolare le aree meridionali, ed Hezbollah, la milizia sciita affiliata all'Iran, il cui leader Nasrallah è stato ucciso proprio da un raid israeliano. L'Iran, infine. Le tensioni tra Tel Aviv e Teheran in queste ore sono altissime e il rischio del precipizio e di un allargamento del conflitto è proprio dietro la porta. Queste sono le premesse che accompagnano la puntata di oggi, che non ha un focus geopolitico, che non vuole occuparsi degli scontri tra i paesi del Medio Oriente, ma che intende accendere un faro sulle manifestazioni, come dicevamo, di supporto alla Palestina e forse ancor più significativamente della repressione di cui sono state oggetto. Già all'indomani dell'inizio delle campagne militari israeliane sulla striscia di Gaza, a ottobre del 2023, le prime manifestazioni a favore del popolo palestinese venivano vietate proprio a due passi da casa nostra, in Germania, in Gran Bretagna e in Francia, tutto in nome ovviamente della difesa dell'ordine pubblico. In primavera poi abbiamo assistito alle mobilitazioni dei campus universitari statunitensi sempre a favore del popolo palestinese e ancora una volta, anche in questo caso, represse con una certa assertività. Arriviamo all'oggi, sabato 5 ottobre a Roma si è tenuta una manifestazione che ha visto scontri abbastanza rilevanti tra le forze dell'ordine e i manifestanti. La manifestazione non era stata autorizzata. Il sostegno al popolo palestinese sembra essere un tabù nei paesi occidentali sedicenti democratici. In questo panorama desolante in cui, non dimentichiamo, sono morti oltre 40.000 palestinesi in un anno, a mettere il dito nella piaga intervengono i giornalisti, gli addetti all'informazione. Mio malgrado mi sono trovato ad assistere ad alcune trasmissioni televisive in cui veniva riproposto il copione trito e ritrito, per cui ogni manifestante, ogni individuo, ogni persona che esprime il proprio supporto al popolo palestinese deve prima di tutto prendere le distanze da Hamas e poi eventualmente può prendere la parola in sostegno del popolo palestinese, come se 40.000 morti e 70 anni di occupazione non fossero abbastanza per prendere la parola. Dalla nausea che tutto ciò inevitabilmente provoca nasce questa puntata. Prima però ci concediamo una breve parentesi musicale per rifiatare un po'. A tra pochissimo. We'll be right back. Dunque, bentornate e bentornati. L'argomento di oggi, come dicevamo all'inizio della trasmissione, torna a farci occupare di Palestina. Ci permette di guardare al conflitto in corso da una prospettiva un po' particolare, ovvero quella delle manifestazioni a favore del popolo palestinese e della repressione di cui sono stato oggetto. Per approfondire il tema siamo al telefono con Tatiana Montella, avvocata e attivista che sabato 5 ottobre era presente in piazza a Roma. Buongiorno Tatiana. Buongiorno a tutte e tutte, piacere di partecipare alla trasmissione. Il piacere è tutto nostro. Io ti porto immediatamente nel vivo del nostro argomento. Ci troviamo oggi a oltre un anno dall'inizio del conflitto, che ha visto intensificarsi le campagne militari israeliane e i suoi sforzi bellici anche, prima contro sulla striscia di Gaza e la Palestina. Oggi, anche questo lo dicevamo in introduzione, questi sforzi coinvolgono il Libano, Hezbollah e addirittura l'Iran. Però in questo anno abbiamo visto anche susseguirsi e moltiplicarsi manifestazioni, proteste e mobilitazioni in molti paesi, naturalmente a fianco del popolo palestinese e contro il governo israeliano. Io ti chiedo di accompagnarci e di aiutarci a ricostruire un po' lo stato dell'arte e il contesto di cui stiamo parlando. Partirei immediatamente dell'immediatezza, diciamo, dei fatti del 7 ottobre. Abbiamo assistito appunto a livello globale, come anticipavi tu, a due fenomeni particolari. Uno, l'intervento appunto massiccio di persone, studenti, attivisti che in qualche modo sin dall'immediatezza dei fatti hanno provato ad evidenziare e a sostenere il popolo palestinese, evidenziando appunto le contraddizioni esistenti sin dall'inizio negli eventi post 7 ottobre. Però dall'altro lato, immediatamente dopo appunto i fatti del 7 ottobre, abbiamo assistito anche alla costruzione, di fronte alla costruzione di forme di sostegno, di lotta e di solidarietà verso l'attacco israeliano e il genocidio che poi è conseguito, abbiamo assistito allo stesso tempo a livello globale a massicce forme di repressione, mi verrebbe di dire, che si sono, diciamo, sviluppate sotto due profili differenti. L'una è una forma di repressione della libertà di espressione stessa, dall'altra una forma di repressione della libertà di movimento e di contestazione. Abbiamo innanzitutto immediatamente assistito, come era evidente se si ripercorre anche un po' le notizie dei giorni successivi, ad una costruzione da parte del governo e dei media che hanno immediatamente definito in qualche modo lo spazio di quello che era possibile dire e non dire, che era possibile nominare o nominare rispetto a quanto stava accadendo in Palestina. Rispetto appunto alla diffusione, penso per esempio, se voglio fare degli esempi un po' più concreti, al fatto che nelle immediatezze del 7 ottobre il ruolo che hanno avuto media e governi anche nella costruzione, nella diffusione in particolar modo anche di fake news, se qualcuno si ricorda la famosa fake news delle notizie delle teste dei bambini decapitate che venivano usate per giocare a calcio, oppure quando il capo dell'AIDF Agaria ha indicato un calendario dentro un ospedale per indicare i turni dei terroristi degli ospedali. Quindi l'elemento a cui abbiamo immediatamente assistito è stata appunto una costruzione di uno spazio di definizione su cosa si poteva dire intorno a quanto accaduto, e dall'altra parte inserendo anche, diciamo, forme di disciplinamento e anche forme di, come dire, di spazi di chiusura di dimensioni di agibilità. Basti pensare, diciamo, alla domanda tipica intorno a quanto accade, sta accadendo ancora oggi, non solo in Palestina, come veniva ben detto, sulla discussione di quanto avvenuto il 7 ottobre, cioè della condanna o meno di quanto avvenuto il 7 ottobre, come una sorta di monopolio del discorso, evitando di poter introdurre qualsiasi forma di ragionamento serio intorno al genocidio in corso. Ma nonostante appunto questi elementi, in realtà la risposta, in particolar modo dalle università, ovviamente non solo italiane, ma da tutte le parti del globo, sono state significative e massicce. Allo stesso tempo però, nonostante le difficoltà di uscire fuori e sostenere qualche forma il popolo palestinese, i governi di quasi tutti i paesi del mondo, cioè nessuno escluso, poi quello che è un po' può differenziare al tal più è il livello, no, di intervento più o meno massiccio, hanno utilizzato due canali di repressione. Uno, puntando lo sguardo, diciamo, sui singoli, no? Su chiunque all'interno dell'università o nel mondo politico esprimesse appunto opinioni in relazione a quanto accaduto il 7 ottobre, con conseguente forme di repressione che potevano andare dall'isolamento al licenziamento fino anche all'espulsione, diciamo, di persone che si trovavano appunto in quel momento negli stati di, diciamo, di arrivo, dove erano magari anche presenti da anni, sulla base appunto della libera espressione del pensiero, senza che ci fosse, diciamo, una verifica rispetto alle conseguenze di quel pensiero, cioè se per esempio rispetto alle espressioni anche autorizzate fosse possibile dimostrare delle forme di pericolosità concreta dei soggetti, o anche se intorno al pensiero che il soggetto esprimeva in qualche modo era possibile rivedere forme di organizzazione intorno a quel pensiero, a quel pensiero stesso. Quindi sostanzialmente le persone sono state colpite individualmente sulla base del fatto che esprimevano appunto solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Allo stesso tempo i movimenti, e su questo, diciamo, effettivamente forse quelli dell'università sono stati quelli più significativi, no? Le varie accampate represse, diciamo, in maniera molto forte, con anche modalità e forme che, se vogliamo, anche nuove, no? Con interventi massicci della polizia all'interno dell'università stessa, con connivenze da rettori fino a istituzioni, diciamo, di vario genere, locali e nazionali. Quindi quello che è possibile dire è che esiste un movimento che è forte e vivo, che ha voglia di sostenere e di continuare ad esprimersi, e dall'altro lato esiste, diciamo, a livello globale una necessità di reprimere, sostanzialmente dettata dalla necessità di lasciare un po' indisturbato Israele nel compimento di quello che ormai si può definire a tutti gli effetti un genocidio, che non rimane più, come notizie di tutti sappiamo, limitato al popolo palestinese. Insomma, sembra di poter dire che non solo il sostegno al popolo palestinese, ma anche la repressione siano diventati un po' uniformi, un po' costanti nel mondo occidentale, nel gruppo delle democrazie occidentali. Sicuramente, cioè, nel senso, è proprio questo, cioè abbiamo questo parallelismo, no? Che ogni tentativo di esprimere appunto forme di contestazione, di lotta, di mobilitazione, poi chiamiamole come più ci pare, ne consegue un immediato bisogno di reprimere appunto quello che accade, come a silenziare sostanzialmente tutte le forme di dissenso possibile, di contrasto a quella che è attualmente la politica e l'attività militare di Israele. E dall'altro lato appunto una forte fatica, ma anche una capacità, diciamo, di una testardaggine, come dire, dei movimenti, in particolar modo quelli studenteschi, di non rassegnarsi allo stato di cose presenti, di poter emergere e far emergere delle voci, diciamo, contro quello che sostanzialmente ormai gli stati, in maniera molto univoca da questo punto di vista, sembrano aver deciso di sostenere, cioè un indiscusso appoggio allo Stato israeliano rispetto agli attacchi che appunto ormai si allargano a macchia d'olio, reprimendo appunto allo stesso tempo all'interno dei propri paesi e dei propri stati ogni possibilità che si venga raccontato, detto e sostenuto altro. E in tutto questo anche il mondo dell'informazione sembra dare una mano sostanziale, no? A una narrazione di un certo tipo, cioè alla criminalizzazione dei movimenti, nonché al ridimensionamento della catastrofe, della tragedia che vivono le palestinesi e i palestinesi in nome di, insomma, una serie di stratificazioni storiche che hanno portato, a modo di dire, di alcuni alla situazione attuale. Come leggi l'approccio del mondo dell'informazione nel mondo occidentale rispetto a questo argomento? Allora, io penso che i media abbiano una seria responsabilità rispetto a quanto avviene appunto in questo momento anche nei territori palestinesi e in Libano e quant'altro. Uno perché appunto anche questa dialettica che dicevo all'inizio, no? Spesso che quando si esprimono manifestazioni di piazza o momenti di conflitto rispetto alla questione palestinese, ci si trova sempre davanti alla fatidica domanda se si condanna il 7 ottobre, se si condanna Hamas e quello che è accaduto in quella giornata, oscurando e monopolizzando ogni possibilità di discutere in maniera più complessa di quello che succede non certo dal 7 ottobre in Palestina, ma da svariati anni. Dall'altro lato, anche questa costruzione, per esempio, di che ogni sorta di dichiarazione che una persona fa, di sostegno che una persona fa, viene tacciata immediatamente di antisemitismo, no? Dalle pagine dei giornali, e questa è innegabilmente una etichetta infamante, perché viene citata addosso, affibbiata addosso a chiunque critichi lo Stato di Israele rispetto alle politiche genocidiarie e a chiunque si definisca antisionista, dimenticando che il sionismo indica un'ideologia e non è che identifica un popolo, un'etnia o un'appartenenza religiosa. Quindi anche il costante tacciare di antisemitismo ovviamente è un altro elemento di utilizzo che i media e i governi fanno per sostanzialmente silenziare ogni forma di dissenso. L'ultimo, diciamo, canale che mi sembra ancora un elemento che in qualche modo chiude la possibilità di riflettere seriamente su quello che ormai è sotto gli occhi di tutti, che sta succedendo appunto in Palestina e non solo, e anche un grosso utilizzo, mi viene da dire, del tema del terrorismo, come una sorta di spauracchio per affermare che chiunque in qualche modo critichi quello che lo Stato di Israele oggi sta mettendo in campo, in realtà sostiene forme di terrorismo probabilmente attualmente non definibili secondo quadri chiari, perché non si comprende appunto. Faccio un caso, un esempio, giusto per intenderci, questo è molto italiano, ma in realtà riproducibile macchiatorio in qualsiasi cioè non è un caso solo italiano. Prendo l'esempio italiano per fare un esempio di quello che accade in realtà moltissimo in Germania, in Francia e in altri paesi. Il caso dell'imam di Bologna, no? Che viene espulso per delle dichiarazioni. Ora, al netto meno del contenuto delle dichiarazioni, lì non c'è, diciamo, nessuna, questa espulsione non consegue nessuna valutazione seria in relazione, cioè, a dei principi che poi sono principi di diritto esistenti nel nostro ordinamento, a nessuna valutazione sulla pericolosità reale del soggetto che vive da oltre 20 anni in Italia, cioè, famiglia, è collocato e ha, diciamo, una propria storia, e senza che ci sia una verifica immediata se in qualche modo le parole o le frasi dallo stesso sostenute hanno avuto un appiglio, no? Un riferimento a possibili organizzazioni, soggetti di vario genere. E in questa dimensione qua ovviamente io penso che il contributo dei governi, ma anche dei media, è, diciamo, altamente, cioè, hanno delle grosse responsabilità, mio modo di pensare, perché creano appunto delle etichette ad hoc, degli elementi ad hoc che in qualche modo spostano l'attenzione e non permettono di discutere del fatto che Israele si nasconde dietro un astratto diritto all'autodifesa che è, diciamo, tutto da discutere, perché va molto quello che sta mettendo in campo oggi Israele va ovviamente molto al di là anche di quelli che possono essere elementi, se mai esiste un diritto così astratto, sconnesso da qualsiasi altro elemento a difendersi. Cioè, sicuramente il diritto di difendersi non significa il diritto di uccidere migliaia di persone e di attaccare paesi e territori esattamente come sta facendo oggi Israele. Tatiana, io rimarrei ancora qua a parlare con te per molto molto tempo, ma purtroppo il tempo a disposizione è terminato. Io ti ringrazio per averci accompagnato nella ricostruzione di questo quadro a tinte fosche, ma d'altronde è anche sabato ora di pranzo, è giusto rovinare il pranzo, il mondo va così. Grazie mille, Tatiana. Grazie, ciao. Noi ci risentiamo sabato prossimo sui 103.1 FM oppure online, l'emittente è sempre Radio Città Fucito. Mon esprit s'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et ben sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, inversion des pôles vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur. Là où meurt le pardon, où même la foi prend peur. Allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple. Et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide. Ça sponsorise le sang, entre char et usine. Innocent dans un ciel aux couleurs des usines. Un silence de deuil, une balle perdue. Toute une famille en pleurs, un enfant abattu. Des milices de l'État, des paramilitaires. Des folies cérébrales, des peuples entiers à terre. Bidonville de misère à l'entrée des palaces. Liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir. Des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu. Et quand la ville s'endort, arrive tant de fois une mort silencieuse, un SDF dans le froid. Prison de ciment, derrière les œillères, le combat est si long pour un peu de lumière. Les familles se déchirent et les pères se font rares. Les enfants ne rient plus, se bâtissent des remparts. Les mères prennent sur elles un jeune sur trois en tôle. Toute cette merde est réelle, donc on se battra encore. C'est la malade libra qui nous bouffe les tripes. Une bouteille de vodka, quelques grammes de weed. Certains ne reviennent pas, le serrage est violent. Subutex injecté dans une flaque de sang. Des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop. C'est plus à la baraque que les mômes rentrent tôt. Ils apprennent la ruse dans un verre de colère. Formatage de la rue, formatage scolaire. C'est chacun sa disquette quand les mondes se rencontrent. C'est le choc des cultures, voire la haine de la honte. Les barrières sont là, dans nos têtes, bien au chaud. Les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau. Non, rien n'est rose ici. La grisaille demeure dans les cœurs meurtris. Qui a petit feu meurt, ne pleure pas ma sœur. Car tu portes le monde, noble est ton cœur. Prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même terre-mère est malade, mais terre-mère résiste. Homme s'est construit son monde, apprenti créateur. Qui a tout déréglé, sanguinaire, prédateur. Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond qu'une vulgaire mascarade. Au parfum d'illusion, maîtresse de nos esprits, crédules et naïfs, conditionnement massif, là où les nerfs sont à vivre, dans la marche et la rage, bastion des galériens. Ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien. Prends conscience mon frère, reste près de ton cœur. Méfie-toi du système, assassin et menteur. Éloigne-toi de la haine qui nous saute tous aux bras. Humanité humaine, seul amour nous sauvera. Écoute le silence quand ton âme est en paix. La lumière s'y trouve, la lumière est rentrée. Vérité en nous-mêmes, fruit de la création. N'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission. Dernière génération à pouvoir tout changer. La vie est avec nous, n'aie pas peur du danger. Alors levons nos voix pour ne plus oublier. Bout de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller? Tous frères et sœurs, reformons la chaîne. Car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair. Retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève. Une lueur suffit à faire fondre les ténèbres. S'essouffle ce temps, une odeur de soufre. La faim se ressent, la bête envoûte la foule. Les symboles s'inversent, se confondent les obsèques. L'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel. Terre à l'agonie, mal-être à l'honneur. Folie, calomnie, peu de cœur à la bonheur. Ignorance du bonheur, de la magie de la vie. Choqué par l'horreur, formé à la survie. L'époque, le pire, une part des conséquences. Le bien, le mal aujourd'hui, choisis ton camp. L'être humain s'est perdu, trop centré sur la voie. Les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voie. Quadrillage ficelé, mais passe la lumière. Et confiance en la vie, en la force de tes rêves. Pousse un ange à l'épaule, présent si tu le cherches. Quand le cœur ne fait qu'un, avec l'esprit et le geste. Le grand jour se prépare, ne vois-tu pas les signes? La mort n'existe pas, c'est juste la fin des cycles. Cette fin se dessine, l'humain se décime. Espoir indigo, les pléiades nous désignent. Lève ta tête et comprends, ressens la force en ton être. Dépasse Babylone, élucide le mystère. Rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse. Enfant du quinto sol, comprends entre les lignes. comprendre les lignes. Enfant du quinto sol, le soleil est en toi. Fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde. Car on n'est pas là par hasard. Les Pléiades nous désignent. Comprendre les lignes. Fais grand ton cœur. Désobéissance, car la vérité est en nous. Car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous.